attimo, perché sì, sto facendo i cosi delle Ah, io sessioni. dovrei, mamma mia. Ah, dammi un attimo che mi esco anche la faccia. Ah, vero, Ce la anch'io. fa. Non vi esco la faccia perché è puntata male. Okay. Così è too much. Boh, proviamo a tenere la faccia, ragazzi. Allora, è il 22 ottobre del 1622. Il party è in cammino verso Esboson e sente un belato fortissimo. Un Vanno a controllare. benissimo. Vanno a controllare, vedono questo capricorno, se possiamo chiamarlo così, che sta venendo, o meglio, stava per mangiare uno dei cinque tizi, come si chiamano, uno dei soldati dell'impero, c'era una sorta di pattuglia, un manipolo, e stava cercando di combatterlo. Decidiamo di aiutarli, Lieto prende la ragazza che gli mancava un pezzo di fianco e poi successivamente incenerà la sua morte dopo che la ragazza l'ha pregata di dire: "No, aiutami, ti prego, non voglio più fare parte dell'impero, non voglio morire di nuovo." E Nieto è un bravo ragazzo e ha detto: "Sì, certo." Nibel invece fa a pezzi questa bestia, nel senso che gli spezza le corna, gli dà tanti calci e tanti pugni, questa muore. Io non posso dire una cosa perché loro non la sanno ancora. Non la O la dire, sanno, non me lo ricordo. non la L'abbiamo sanno, detta non la l'hanno Mila, detto. sì. Non ne avete parlato a sufficienza. Salta la parte, vai avanti. Ok, va bene. Ok, perfetto. E dopo che è stato fatto, inscenato questo funerale, vanno avanti, si scopre che le perle di Rumaru fanno qualcosa alla tecnologia, cioè fanno un po' di contrasto, ovvero la pistola di Lieto cambia effetto e non sappia, un braccio meccanico della piaga bronzea si è rianimato. Arancia meccanica. Esatto. E quindi insomma, bisognerà testare ancora, però abbiamo visto che dà noia alla tecnologia. Arriviamo finalmente ad Esboson, accompagnati da Cici, che è appunto la ragazzina giovanissima dell'impero. E decidiamo di trovare posto dove pernottare, e però vogliamo spedire anche delle lettere, quindi ci rechiamo nel posto migliore dove possiamo andare, la Corona Nera, a casa per alcuni. E niente, decidiamo di spedire queste lettere, però in realtà ne abbiamo ricevute altrettante. E ragazzi, tanta ansia perché Pronoe sta arrivando. Madonna beata, ragazzi! Niven è sulle tracce di Adelfo, a quanto pare. Adone ha sentito il papi e anche Mif ha sentito il papi. E qua si chiude la sessione. Ah sì, abbiamo bisogno di una mana unit. Allora. Continuiamo a essere in desperate need of a mana unit. 22 ottobre 1622, sera, circa le 7 di sera. 7:30, è notte, perché essendo ottobre da queste parti il sole è già ampiamente tramontato. Riavvolgiamo leggermente la situazione. Vi siete separati per la centomillesima volta. Nivel è andato a fare le sue cose in centro e lo raggiungeremo tra un secondo. Voi siete nell'antiquario della Corona Nera e siete in quattro, voi tre più Cici. E vorrei chiedervi, quando vedete Nibel scattare fuori, cosa volete fare? Giusto? Vai tu, Siri. Adone è out of this world in questo momento, sta leggendo la lettera catatonico. Perfetto. Se non sbaglio, Nibel ha dato la lettera. Mif, insomma, ha preso la lettera, si è messa a leggerla e poi ha letteralmente fatto così, vedendo Nibel uscire ed è tipo: "Ma che cazzo?" Allora si mette a leggerla ad alta voce per tutti. E quindi si capiscono un paio di cose. E però nel mentre dopo Lieto ha detto le sue, quindi it is what it is. Non mi ricordo però il contenuto della lettera di Nibel a sto punto. No. Allora sì, ok, l'abbiamo letta ad alta Sì. voce, non te l'ho mandata. Te la riassumo. Vai, adesso sì, va benissimo. Ti ricordi il tizio crocifisso ad Apeira? Che avete tirato giù dalla croce? Sì. Bene, sì, ha scritto una lettera a Nibel dicendogli che ha scoperto cose su Adelfo e gli ha dato delle indicazioni su dove andare. Ok. En passant diceva: se ti chiedono di una teiera, tu non sai niente. Va bene. Uh-huh. E non sappiamo niente di nessuna teiera. Sembrerebbe di no, visto che non abbiamo giocato la one shot settimana scorsa. Dai! Quanto mi piace sto gioco. Ti odio. Vi faccio fare una cosa a testa, poi passo a Nibel. Sarà leggerissimamente lunghina la sua cosa, quindi... Vai, perfetto. Guarda, Bobis. Bellissimo il maglione, fra. So. Dios. Sì, quale? Dios. Il maglione. Ah, sicuro non è il mio. Metti un po' su, flexa un pochino, tira sulle tette. Wow. Se mi danno fastidio questi miei commenti. Così ne fa di più. No! Così diventa più molesto. We like me e spezzarmi lo blindato per questa vita. Voto 10. Apprezzabile. No, dicevo, Adoni credo che dopo aver scritto la lettera... Dopo aver letto la lettera si mette a scriverne una. Quindi tempo di scrivere la lettera e spedirla. Bene. E voi due volete fare qualcosa o... Penso che Mif scriva appunto quello che ti ho detto. E una volta che insomma ha finito si rivolge verso Lieto e fa: dobbiamo pensare a qualcosa subito. Dobbiamo pensare a qualcosa subito. È il momento di andare a cercare mia madre, I guess. E... Perché qua? Cioè, perché vuole venire qua? Non lo so. Non te l'ha scritto? Certo, questi genitori sempre con un sacco di contesto e guarda la sua lettera, no? Non so niente. E... Dovrebbe avere però... in questo posto. Probabilmente sarà nella zona più costosa e decadente possibile. Aspettiamo domani allora a trovarla? Sì. Tanto secondo me si farà riconoscere. Quasi sicuramente. E se non succede domani quello che doveva succedere, o se quello che non doveva succedere è fuori dalla finestra e ci sta guardando con un rosario in mano. Sono... No, niente. Stavo per dire una roba stupida. Ci conviene andare a cercare Nibel. Ho un'idea in mente. Abbiamo bisogno di una mana unit, giusto? Sì, e la signora ce l'ha la mana unit da darci? Gratuitamente no. Ma me la vuoi dare la mana unit? Fidati di questa affermazione. Sì, e vuoi pure uscire da quest'isola oltretutto, cioè non vuoi rimanere qua tu. È un consiglio di cuore. Sono confidente di avere tutto ciò che mi serve. You the fucking don't. Sta indicando il fatto che questo è un antiquario. Antiquario di cosa? Cosa c'è dentro questo posto? Grazie per averlo chiesto. Dopo un botto di ore finalmente possiamo fare questa cosa. Il luogo dove siete entrati è effettivamente un antiquario, cioè un luogo pieno di oggetti antichi. La maggior parte sono chincaglierie di Esboson, cioè reperti archeologici mal nascosti del luogo. Tra questi noti tre cose, notate, cioè tutti quelli che hanno gli occhi per vedere notano, tre quindi cose Adone, che... no? Tre cose diverse dal resto. La prima è una collana con dei teschieti stilizzati tutto intorno, che emana una forma di magia che a ognuno di voi ricorda una cosa diversa. E a Mif ricorda in maniera molto lontana Yadamak, però non è quello, cioè molto lontano. Okay. a Lieto ricorda le cagate che propiziatorie che aveva la tua balia. Ad Adone ricorda più di tutti quella volta che Zanzana ha fatto venire giorno. Più di tutti, perché le altre cose che hai visto non ci assomigliano così tanto. Comunque, una collana o dei dischetti. Poi c'è una pila di pergamene. Non so se pila è il termine giusto, perché sono, cioè, sono circa. Vabbè, avete capito come sono fatto. Sì. Una catasta, forse è più corretto. Sì. Con un. I capi diverti. Benissimo. Che emettono una leggera energia magica. Ok. E infine c'è un libro rilegato in pelle, rigorosamente nero, anch'esso che vi dà un vibe strano. Il resto delle robe sembrano normali, cioè sono libri e altri oggetti abbastanza normali. Ho trovato il libro, se per curiosità. Non l'ho sentito. Dove è stato trovato il libro? Vero? Curiosità. Cioè, mi si rivolge a Prometeo. Si paga un extra per sapere queste cose. Mi si gira verso Lieto. E vabbè. Tanto non c'ho niente da perdere. Allungo la mia lettera aperta alla tipa. Ok, grazie, perfetto. Se pagavi Mif si sarebbe incazzata, no? Ottimo. Oh. La gente può mentire per lettere, sapete? Siete consapevoli, certo, di questa cosa. Benissimo. Assumiamo che non sia così. Tutti gli oggetti di antiquariato che vengono recuperati qua sono consegnati da membri della nostra associazione di beneficenza. E in questo caso specifico credo sia stato prestato da una biblioteca solverica. Regno 7. Se ne proibite? Probabile. Ti può dare un'occhiata? Sì, costa 12 monete se te lo vuoi portare a casa. Non me lo voglio portare a casa, volevo soltanto vedere cos'era. Divertiti. Il libro, quando lo apri, noti che ha due problemi. Il primo è che è scritto in una lingua che non conosci. O meglio, è più cifrato. Dovresti perdere del tempo a decifrarlo. Il secondo è che ha dei sigilli che sembrano delle varianti, dove l'ho già sentita sta cosa, dei sigilli diabolici. A occhio così non riesci a capire di che cosa tratta, dovresti perderci del tempo. Non ho voglia di spenderci 12 monete. Non le ho. No, non le ho 12 monete da spendere. Possiamo averlo. Lo mettiamo in conto. Mamma ti ripaga poi. Sono sicura che riuscirete a trovare dei soldi e comprarlo legalmente. E come vi dicevo, è la mia... Sono d'accordo con te, Bobo Tiff. Non hai venduto questo libro al figlio della persona di cui hai appena letto la lettera. Prima di tutto, lei sarebbe fiera di me e delle mie capacità commerciali. In secondo luogo, questo è uno dei miei... delle mie assicurazioni nel caso in cui le cose vadano particolarmente male come sospettate. Bene, va bene. Gli snocciolo 12 monete. Avete ottenuto un trattato di demonologia. Biff, che ti fa? Ma no, ma sei scemo, ne abbiamo bisogno. Nel mentre ho finito di scrivere la lettera. Sì. Adone si avvicina a voi con un fare un po' lugubre e dice: di cosa stiamo parlando? Lieto mi ha appena preso un libro, a quanto pare. È cifrato, quindi se vuoi... Uno da Adam non riceve mai niente. Stupa. Aspetta stasera. Posso dare un'occhiata? Lo vedi un po' interessato adesso, quando si parla di libri. Mm-hmm. E... Giannis, io so cifrarlo, visto qualcosa di simile, le mie conoscenze entrano in un gioco... Decifrarlo è un'operazione che richiede tempo e non abilità. Cioè devi metterti lì e... Esatto, e decriptarlo. Okay. I simboli che hai visto ti ricordano, sono familiari perché hai visto altri trattati di demonologia. Tra quelli che ti sei segnato nel tuo taccuino non ce n'è nessuno di identico, ce ne sono alcuni che sono simili. Ok, ok. Allora ci do sfoglio un pochino e te lo ripasso e dico sì, ovviamente ci vorrebbe un po' di tempo. Però interessante. Sì. No, infatti più emana. Quanto l'avete pagato? 12 monete. L'hai già tolte o te le devo togliere? Le devi togliere. E togli le sieso. Non è costato poco. Infatti, e si gira verso Lieto. Non è importante. Quindi tieni il libro. Beh, Nibel, ho visto che è uscito di corsa. È successo sì, meglio andarlo a prendere. Probabilmente diretto al porto. Almeno su questo, cioè al porto, in piazza. Col cazzo che è. C'è scritto sulla lettera. Grazie dei suoi servizi. Quando volete. E visto che ci siamo, prima di salutarci, se dovessi sentire qualcosa da parte della Mano Nera, da qua a domani o comunque nei prossimi giorni, e ci troverai. Dove avevamo detto che volevamo andare? Nella zona malfamata. Oddio. Mi pare a fare. Abbiamo anche già preso la stanza. Avete già preso la stanza d'albergo, sì, nel porto. Gli dico dove trovarmi. L'acqua di pesce. Beh. Non ne aveva questo nome l'altra non volta. L'avevo dato, non avevamo nato. Ci aveva detto. L'acqua di pesce. Ti trovi all'acqua di pesce. Ovviamente la lingua del luogo che è leggermente diverso. Acqua con la K. sì, potrebbe essere molto utile a tutti quanti. Ve lo farò sapere appena so qualcosa. Se saprò qualcosa, Valik su you. Bene, allora è meglio che ci incamminiamo. Che ci incamminiamo verso Nibel. Sì. Sia mai che. Mentre voi state discutendo, dicendo, si era presa un momento per parlare con la commessa e le ha detto: c'è lavoro per una persona che non ha nulla da perdere, vero? Potrei chiedere in giro che cosa ti specializzi? Menare le cose finché non muoiono. Sì, c'è sempre lavoro per questo genere di cose. Ma puoi dirti noi, Sì. Io mi importo avanti col lavoro, che non si sa mai. Ah, e un'altra cosa. Vendi pergamene, giusto? Ti interessa qualcosa? Le sbatte 8 monete sul tavolo. Una pergamena di Destroy. Grazie. Oh, ottima scelta. Un connessere anche lei. Esatto. Mi sto sognando qua, poi me li trasferisco altrove. Fine della vostra scena, ritornerete tra un attimo e ora riprendo la scena divertente. Nibel ha tirato dritto verso il mercato, che a quest'ora sta per chiudere. Comunque stanno sbaraccando le cose più grosse, poi quelle più piccole, insomma. Vendono ancora, ma si sta finendo la giornata. Ci sono tante persone più o meno sospette, ma non sai perché c'è un uomo che ti dà un vibe che matcha quello di Adelfo. L'uomo in questione, metto l'immagine su Fateless, è questo. Ha un cappello, degli stranissimi occhiali neri, la barba, i guanti e sta fumando un sigaro. Ha grossi indumenti di pelle, insomma, è una persona particolare. Ti leggo anche la descrizione. Ci sono numerosi banchetti esposti al mercato più grande di Esboson. Solo un paio di questi sono fissi e collegati agli edifici accanto, mentre gli altri sono mobili. Sopra il banco fisso di quest'uomo c'è scritto rigattiere nel dialetto del luogo, che è molto simile a quello di Apeira, quindi riesce a capire che è un rigattiere. Io ci giro attorno come uno squalo che gira attorno ad una preda senza andare direttamente da lui. E mi avvicino prima delle altre persone e ne fermo una a caso e dico... Il rigatino lo conosce. Hai laggato, credo. Fermo una persona a caso che trovo lì, rimanendo a distanza in modo da non risultare diciamo troppo visibile, nonostante l'altezza ovviamente. E fermo un tizio a caso e gli chiedo il rigattiere. Sa chi è? Sì, è un uomo che lavora qua da 30 anni, credo. 30 anni. Sa che sarà qual è il suo nome? Si chiama... No, non lo conosco. Tutti lo chiamano per cognome, chiaramente. Che è... Aspetta, ce l'ho scritto. Dammi un secondo. Il nome non lo sa questa persona che hai fermato. Il cognome è... Aixos. Non l'ho mai sentito il nome. Non ti dice niente. Anzi, è proprio un nome che non... un cognome che non hai mai sentito. Se guardo in volto, mi ricorda Delfo o qualcuno che conosco. No, proprio fisicamente è completamente diverso e non ti ricorda nessuno. Ha i tratti facciali, le caratteristiche fisiche tipiche della gente di qua, quindi più simile agli arabi che non agli Akaios. Okay. Ok, lui è ancora al bancone, sta ritirando tipo in questo momento. Sì, stanno scaricando, cioè lui e i suoi collaboratori, che sono dei ragazzi molto più giovani, stanno scaricando delle casse, mettono via degli oggetti, fanno l'inventario. Allora mi avvicino al bancone e se lì dico, posso rubarlo un momento? Si toglie il sigaro di in bocca. Certo, come ti posso aiutare? Starei cercando una persona. Adelfo Schiliseto. Adelfo? Via Peira? Un vecchio collega. Che Libiagon mi mangi il fegato, certo che lo conosco. Quel figlio di puttana ha lavorato per 3, forse 4 anni qui. Non ricordo quanti anni fa. Ci sapeva fare, era... impiegato, forse il migliore che ho mai avuto. Comprava i materiali a un quinto del valore di mercato e riconosceva a colpo d'occhio le cose che poteva rivendere. E a colpo d'occhio quello che faceva schifo. Era un figlio di puttana grande e grosso, ma molto utile. Sembrava scappare da qualcosa, ma non si è mai aperto con nessuno. Come mai lo cerchi? Diciamo che è scappato anche da me tempo fa. Ho capito. Prima o poi le cose da cui scappi ritornano. Se hai qualsiasi informazione ti sarei grato se potessi dire. Butta il sigaro per terra, lo calpesta con la scarpa. Ti posso raccontare l'ultima volta che l'ho visto. Un giorno arriva uno di questi cazzo di monaci, tutti magri, vestiti di bianco. Parla con loro per 2 ore, durante l'orario di lavoro, ovviamente. E poi, puff, il giorno dopo è sparito nel nulla. Figlio di puttana mi ha fatto guadagnare 200.000 manapenny e poi mi ha rubato 12 mana unit. Porco Dio! Alla fine sto ancora in positivo di 8. Ma non me ne frega un cazzo, onestamente. La vita va così. A volte va bene, a volte va male. Se lo trovi, vedi che qua c'è sempre posto per uno stronzo come lui. Sto per dirgli una cosa, però rimango in silenzio e dico... Mi sai dire una direzione? Guarda, non sono il tipo da informarsi sulle religioni. So che i monaci hanno... un santuario su per le montagne e un altro dove c'era la vecchia città. Sinceramente non saprei distinguerli. Ok. A me non mi è mai sembrata una persona particolarmente religiosa, quindi... Neanche a me. Forse cerca protezione. Solo gli dei del mare sanno. Prendo la pipa, l'accendo e dico... Mi servirà. Grazie dell'aiuto. Bocca al lupo. E riprende a sbaraccare. Mi allontano e con qualche informazione in più comincio ad andare di nuovo dagli altri. Li incroci, perché mentre tu torni indietro loro sono usciti, e vi incontrate in una delle strade principali della città. Siete all'aperto, siete in un luogo nascosto, e avete un sacco di gente in giro, perché nonostante sia sera la gente comunque esce per andare a mangiare, insomma c'è dell'attività. Ditemi voi cosa volete fare. Io ritorno dagli altri, sto fumando e sto guardando, cammino a testa bassa guardando il pavimento mentre mi incammino, quindi in realtà non faccio neanche particolarmente caso agli altri se ci incrociamo. Adone Mojo Mojo segue Mif dietro. Che cosa? No, Adone Mojo Mojo è dietro Mif. No, sta parlando con Alice da Gio Mask. Ok, Mif spotta Nibble o dobbiamo cercarlo attivamente? No, lo trovate, lo incrociate, cioè non dà nell'occhio. Mif che ti fa tipo così, Nibble, tutto bene? Sì, ho avuto qualche informazione in più, forse ho una pista. Ottimo, sarà meglio seguirla molto velocemente allora, forse dobbiamo trovare un posto un pochino più privato rispetto che le strade per parlare. Serve una mana unit il prima possibile. Esatto, una parca o entrambe, don't really care. Il rigattino ha detto che gli aveva fatto procurare delle mana unit, però se ne è tenute qualcune. Gliene ha rubate 12, se vuoi dire il numero esatto. Se è successo un po' di tempo fa, però se troviamo ad Elfo probabilmente troveremo anche delle mana unit. In un giorno riusciamo a farlo? Mi ha detto che delle voci riguardo il fatto che si sia diretto da dei monaci. Non ne ho in cima alla montagna. Le due direzioni erano una in cima alla montagna e l'altra? Sulle rovine della vecchia città. Ok. Quindi dobbiamo scavalcare, in ogni caso. Dalla le rovine della vecchia città, dove la cima della montagna è questa, no? Sì. E dove c'è il planetario e le rovine della vecchia città. Okay. Perché già Cleto vi aveva detto che lì c'erano dei cultisti. Sì. C'è anche no, questo lo dico io Sirio out of game. C'è un altare di Arva sulla mappa. Esatto, che è questo qua. Però andiamo avanti. Qual è? Questo qui. Ah, il quadrato, ok. Non lo segno perché è una vostra congettura, chiaramente. Chiaramente. Chiaramente. Passiamo di lì, possiamo andare a controllare. Ok, perché sennò ci tocca fare un salto ad una centrale di nostra conoscenza. Allora, ci riposiamo, ci rifocilliamo e partiamo. And we go. Mi rollate tutti nascondersi? No, nascondersi. Così agilità. E chi sei? Un ninja. E mi sono già dimenticato quanto c'ho di bonus, perché mi sa che ho chiuso la cosa, invece 2 di bonus. Vianici, com'è che funziona l'intervento? Hai 1 di bonus, tu. Uno. Sì, fai un ritiri. C'è un intervento? Sì, c'è un intervento. Ah, amici. Vero. Amici, secondo voi lo uso l'intervento? Ok, lo uso. Sai cosa? Sì, sì, sì. Tanto adesso sì, riposate, sì. Quindi lo recuperi sempre. Ho fatto 4! Ho fatto lo stesso numero! Sì. Defino. Hai rewind come opzione oppure roadhoggy questo 4? Sei fated. Non voglio roadhoggare perché gli sto... Tirate a nascondervi in una piazza in un momento in cui stiamo parlando. Faccio rewind. Ci sta, sì. Puoi rollare due volte perché ti restituisce anche l'intervento, rewind. Prendiamo il 5. Ma uno ho alzato la cosa. Ah, oggi non è la giornata di Adone. Tu non posso fare rewind di nuovo. No, sì, quante volte lo posso fare però? Sì, sì, puoi fare un'altra volta. Ma se fare rewind vuol dire che dobbiamo rerollare tutti quanti? No, perché volte. Rewind no, cambia solo. Suo. Sì. Okay. Cioè voi ripetete le stesse azioni perché non avete la concezione del tempo. Allora, io li rifaccio, però certo. Spacco qualcosa se fa... Poi andiamo a dormire, sera? Sì. Sì, cioè, è quello che volevamo fare, dai. Per il gioco tutti rewind? Ancora due e abbiamo finito. Io non so cosa succede fra qua quando andiamo a dormire. Devi cosa succede quando dormiamo. Esatto, devi scommettere la tua pellaccia. Non posso usare più ti stai ponendo troppi problemi. Devi tirare. Paradocca col 5, fra. Tanto, il massimo che può succedere è che ci troviamo dei soldati dell'impero e li ammazziamo. Siamo a posto. Rotocchiamo il 5. Figurati, è come se tanto non ci avessimo il nostro wish alla fine. Ah no, aspetta. Esatto. Tu no. Wow. I panni proprio. Wow, attenzione. Il karma arriva ed è molto veloce. È molto stronzo. Vuoi fare l'ultimo coso quindi? No. Ah, ce n'hai uno su due. Sì, scusami, hai ragione. 5. Come avrai intuito, non è sufficiente. Per la strada sta passando una pattuglia. Aspetta, faccio il roll per Cici. 9, Cici lo supera abbondantemente. Per la strada passa una pattuglia dell'impero e a capo di questa pattuglia c'è un uomo con una maschera bianca e un bastone che termina con una campana. E Adone ci saluta. Quando passeggia si gira verso di te, fate eye contact. Tu e l'uomo con la campana. E si ferma per un istante a guardarti. Voglio sapere la tua reazione. Rewind. Non so fare rewind. Lasciamo decidere il concilio. Per non guardare. Sì, però non per nasconderti, per non guardarlo negli occhi. Esatto. No, allora il contatto visivo si fa. Allora, possiamo provare fare per rewind. Nascondersi. È scelta tua, fai tu. Io sono il Mina col lieto, tipo. Cioè, sì, cioè con Ika, nel senso adesso è troppo tardi per fare un roll nuovo. No, secondo me. Contact, puoi vedere come vanno le cose e al massimo puoi fare rewind per cambiarla. Adone? Come vorrei fare rewind averla. Non per rerollare. No, fermi. Fare rewind non per rerollare il nascondersi vecchio, ma per far sì che tu ti sia accorto che stava arrivando. Fai un altro nasconderti, però senza l'intervento, e ti metti dietro Nibel. Che cazzo ne so. Esatto. Qual è la tua idea? Un roll sulle invece i due. Esatto. Possiamo cucinare qualcosa. Ho una domanda. Giochi d'anticipo. Io posso castare Future Glimpse senza che si accorga? Sì. Cioè, dipende quanto è potente questa persona, però tendenzialmente con le persone normali puoi. Dalla giuria mi dicono forse è meglio non farlo. Però. Allora, facciamo così. Se ci scappa il Piper non fa. Se mi attacca. Vai lungo. Sono pronta a cazzo. Il cuore di Dio. Che sicuramente lo ucciderà. aperto. Chiaramente no, però se mi attacca, che cazzo devo fare? Farmi uccidere? Sì, sì, sì. Quindi se mi attacca... L'uomo? Ma c'hai il contact, vediamo cosa mi deve dire. Tu non stai facendo niente, sei paralizzato, sei una deer in the headlight. Io lo sto guardando. Ok. Lui ha la maschera. Non così terrorizzato. Cioè, sì, però... Non è che avrà un fatta di pantaloni, sono pronto. Fa un cenno con la mano. Molto... Lui è rigidissimo, fa un cenno con la mano. E segnala ai suoi uomini di andarsene. Ha una mano dietro la schiena e una sullo scettro. Fa un passo nella tua direzione. Non ha notato gli altri, non sta guardando gli altri. E voi se non... si stacca. Bene, sì. E gli va incontro. Ok. Notiamo questa cosa? Sì. Però se vuoi fare una reazione, cioè, ti nota. E infatti mi si ferma e fa... Adone? Cioè, non ha visto il tizio, dai, insomma, secondo me... Adone fa, che non ti, fa ci un sei. Cenno, ti fa un cenno così con la mano di aspettare e va incontro al tipo. Lieto è così. Non li vedo. Non sono parte di questa situazione. Io. L'uomo è un pochino più alto di te, credo. Non di tantissimo, però... Io sono alto, 1,73 tipo. Sì, un po' più alto. Mi sembra di conoscerti. Ti dispiace dirmi il tuo nome? Adone si tira un po' su, cerca di farsi fiero, ma... E dice... Adone Uhtred. Sul volto dell'uomo compare un sorriso, un gran bel sorriso, e dice: che coincidenza, ti stavo cercando, ma non pensavo di trovarti su quest'isola dimenticata dagli dèi. Non così dimenticata, se... beh, siete riusciti a trovarmi. Ho un piccolo sorriso. L'uomo sbatte la punta del suo bastone sulla sua maschera e dice: sembra quasi che sia stato tu a trovare me. Dimmi, cosa hai fatto dopo essere fuggito dalla quarantena? Beh, ho fatto tante cose, non ne ho fatte altrettante. Ma si guarda un attimo attorno e dice: non mi pare questo un luogo consono, non trova? Non hai tutti i torti. Domattina, all'alba, vediamoci poco fuori dalla città. E se non mi presentassi? Beh, so che sei su quest'isola, ti troverò. Ed è meglio se non mi obblighi a cercarti. Lei ha detto che... Domanda, si dà del lei o del voi? Non hai mai parlato con un magister in vita tua, quindi... Gli darò del voi, visto che l'ho già usato prima, tecnicamente voi dell'impero, ma facciamo che parlo... Sì, sì. Voi avete detto che mi conoscete già, ma io non conosco il vostro nome. Nessuno dovrebbe conoscerlo. Per quanto ti riguarda, io sono il Magister Magi. Beh, almeno ho un titolo. Ti sto evitando un arresto per stasera perché ho delle altre cose di cui occuparmi. Prendila come la tua ultima notte da uomo libero. E inizia ad andarsene. Gli vado un attimo dietro. E... gli chiedo: cosa avete fatto a Silas? Si gira. Ti sta guardando dall'alto in basso. Tira su con la mano libera la maschera, abbastanza da farti vedere il suo volto di vecchiaccio pieno di macchie, con la barba curatissima, però comunque un volto veramente molto anziano. Quello che doveva essere fatto. Si tira giù la maschera e prosegue. Il cuore di Dio, no, scherzo! Ah. Adone lo guarda andare via e poi raggiunge gli altri. Io credo tipo così, che cazzo fai a parlare con un magister? Qual era la soluzione? Fare finta che non esistesse? Tu? Mentire. Mentire? Ma ce n'è un po' di alternative. Esatto. C'è la quantità. No. Domani ti aspetteranno, lo sai? Sì. E la fine di quell'altra che... Mi fa tipo fa... Questo non lo dico in pubblico. Farai una brutta fine, però. Di chi stai parlando? Tone. Tipo, ti fa... Guarda dietro, tipo... E indica verso la centrale, no? Tu pensi di avere una possibilità contro quell'uomo? Tu pensi di avere una possibilità contro quell'uomo? No. Ok, perfetto, non andarci domani. Dobbiamo partire stanotte. Dobbiamo andare allora via da quest'isola, non crearsi altri problemi. Ma quale sarebbe il problema? Mi sembra di essermi perso qualcosa. Beh, abbiamo... Oh! Una notte per trovare una soluzione. Voi potete pensare alle vostre faccende. Cavolo, da solo un'altra volta. Sei morto la volta scorsa, cazzo! Ok, cioè, Bip impreita fortissimo, cioè. Gli altri mi hanno detto il contenuto delle loro lettere? No. No. Sei andato via molto prima. Ok. Esatto. La mamma, la madre di Lieto sta arrivando in quest'isola. Saluto, invasione di... in camera. Adone dice... Cioè, tra l'altro si era un attimo perso, dice... Sì, effettivamente... Cosa comporta l'arrivo di Promezia? Hai visitato il suo negozio? Di Promezia? Sì, di Pronoe. No. No, perfetto, meglio, aveva semplicemente, cos'era, era il dito del primo avatar di Dio, cioè il primo vescovo, esatto, tenuto, lì, aveva una mummia che si è anche mossa, letteralmente, a me ha fatto, cioè... E per noi è quella che castava magie dal libro azzurro. Castava magie dal libro azzurro? Cioè, vedete, mi fa con le mani di fare. Ed è tua madre? Sta venendo qua. Che rapporto ha la corona nera con l'impero? Non credo che... non hanno buono. Sicuramente un rapporto buono. L'ultima che volta che... No? L'ultima volta gli abbia vincolato un artefatto sufficientemente. Per quanto tempo dovrebbe arrivare? Probabilmente è già qua. Meglio ancora. Tu vuoi convincerli a farsi una guerra tra di loro come distrazione per noi per andarcene, vero? Per andarcene, vero? Il meme di... Se Pronoe ha bisogno di un'esca, ce l'abbiamo. Sì, tu sei un'ottima esca in questo momento, effettivamente. Quello che succederà dove sarà un magister domani. Quello che succederà dopo non è un problema mio. Io sono ad un passo dal mio obiettivo. Sì, dobbiamo concentrarci su quello. Esatto, trovare Adelfo. E trovare una mano unit. Ce ne basta solo una. 2, 3, 4. Possiamo speedare la barca. Prendiamo tutto quello che ha. Ridiamo a chi dobbiamo ridare le cose che gli ha portato via. E poi sono libero. Lavoreremo per quello allora. Chi sta guardando Adone? Adone ha avuto un'idea, che però in questo momento non sta condividendo con voi, in questo preciso istante. Però ha avuto un'idea. Che paura. Se quello fallì... Vai, vai. Volevo dirvi solo che in tutto questo Cici non si è mossa di un millimetro. Sì, c'è proprio la tecnica dello possum di essere perfettamente immobile. Tu cazzo, devo veramente fare rewind. Io guardo Cici e dico: sei fortunata che hanno pesci più grossi da prendere. Con lo sguardo vitreo annuisce leggermente la, con la testa, proprio. Mi avvicino a Cici e do tipo una gomitata leggera. Questo è il quarto magister che vediamo di persona. Ne avete visti quattro voi? Io di persona ne ho visti due, ce n'era un altro e c'è lui. Le metto una mano sulla spalla, tipo, ma io ne ho visti soltanto due, quello precedente ha ucciso un dio. Vabbè, andiamo a riposarci. Madonna, peak dead energy comunque, Nibel. Immagino la pacca sulla spalla di Nibel. Dai, andiamo a prendere una birra. Papà. Andiamo... dormire. Andiamo a dormire. All'acqua di pesce. L'acqua di pesce. Io poi ho delle domande da farti, Pjanic. Falle subito. Lo strumentopolo magico che abbiamo raccolto io e Mif, potrei utilizzarlo in qualche modo? Qual è lo strumentopolo? Ah, ok. Devi dirmi tu come. Cioè, che esperimenti vuoi fare? Allora, se vuoi condividerlo col gruppo. Io anche in realtà poi volevo beccare Mif e Adone per fargli vedere la pergamena e il libro. Siamo, potete, siamo in stanza, esatto, credo, siete avete due stanze, però prima tutti nella stessa, esattamente, esatto. Potete fare riunione, fate voi nella prima. Adone a questo punto fa, chiede prima a Mif: posso mostrare quello che abbiamo trovato? Fai quello che vuoi, a me non l'hai nemmeno fatto vedere. Via Mif. Comunque dalla borsa tira fuori, dice: siamo tutti riuniti, no? E tira fuori una questo moneta. È il mio corpo. Esatto, si potrebbe dire di certo. E tira fuori una cosa che sembra un manapenny, ma non è un manapenny. E appunto Adone dice: il capricorno che abbiamo ucciso ha fatto cadere questo. L'ho sgraffignato, l'abbiamo notato io e Mif, l'abbiamo sgraffignato prima che se ne accorgessero quelli dell'impero. Lo guarda un attimo e dice: per non possedere migliori definizioni, sembra una moneta diabolica, così possiamo chiamarlo. Un devil penny, non so. Il capricorno, mentre si curava, ha fatto un sigillo che ha una variante appartenente al diavolo, o almeno questo mi sembra. Temofab, io adesso non so come funzionino le varianti dei sigilli, non so neanche se le ho viste mai in atto, e quindi, insomma, magari... Ma un appenny usato? Magari è qualcosa di usato? Cioè ha già fatto il suo corso? Esausto? Sì, oppure una sintetizzazione, cioè la magia ha preso quella forma lì, non lo so. Adone lo può analizzare? Sì. Cioè con la sua magia percepire che magia c'è, se c'è. Arcano, vai, fai un roll di arcano. C'hai più 8. Okay. 8 o 13. 13. È allineato alle stregonerie. E questo è tutto quello che ti dico, perché Adone non è competente in questa disciplina. Ah, vero, hai ragione. E Adone dice: forse Mif è meglio però che lo studi te, stregoneria. Magari ci capisci qualcosa di più di me. Ok, lo prende, lo sente. Vai. Non ho la pagina qua. 7 più 9. 16. Di recente hai imparato a lanciare la magia Counterspell. La magia Counterspell richiede che tu abbia uno stato d'animo peculiare. Puoi scegliere te poi se ripetere queste cose agli altri o no. E questa moneta ha quella stessa vibe, quella stessa energia. È vero, di indifferenza. E fin qua, esatto, ci eravamo arrivati. Esattamente. Dietro percepiva l'indifferenza. Esattamente. Non avete mai visto una cosa del genere? Cioè... i manapenny, per quello che ne sapete, sono una cosa inventata di recente. Non c'è nessun motivo valido per cui un animale debba cagare delle robe simili ai manapenny. Non avete mai sentito una cosa del genere. Quello che invece sei sicura al 100% è che sembra essere il 50% di qualcos'altro. Così come i mana penny sono la fonte di energia che attiva le apparecchiature di mana, questo oggetto sembra o la fonte di energia o la chiave o un sistema per aprire qualcos'altro. Su cosa sia il qualcos'altro, non mi ho rata l'os, nonostante il tiro molto alto. E mi fa un tiro anche lieto, se lo sta vedendo. Mif comunque vi ripete queste cose. Ok. Potrebbe essere... E anche ne ho. Sono 12. La serratura. 12, va decente. Il vibe complementare ti ricorda la buccia di arancia. Oh no. E... lieto fa tipo... si gira intorno, cerca tipo un strofinaccio, lo prende e poi tipo prende la moneta. No, basta. Dietro stai bene? No. E piega tipo lo strofinaccio. Cosa sai tu dietro che non sappiamo? Dietro? Ve l'ho già raccontato della buccia d'arancia. Della buccia d'arancia di quella buccia d'arancia? Mi sembra che ce l'abbia raccontato effettivamente. Sì, l'ho già raccontato. Era la cosa che abbiamo rubato a due dei Magister. E... cioè, a uno dei due, c'era anche un altro Magister for no reason in particolare. Sono amiche. E... adesso è un oggetto che possiede... Premezia, per noi. E che a quanto pare... ah, aspetta! Effettivamente. Ok. E... Promezia era riuscita a controllare il potere della buccia d'arancia transdimensionale. Questo è quello che ha visto Lieto, cioè non vi sa dire più di questo. E tu pensi che sia la stessa cosa? Il vibe che ricevo da questo oggetto è estremamente simile. Quindi potremmo trovare un modo per utilizzarlo. O per controllarlo, esatto. Sì, per controllarlo. Se questa è la chiave, basta la serratura. Perché deve venire fuori da un animale, però? Il libro che abbiamo appena preso. Ah, sì. Se lo tira fuori, lo mette tipo, non so se c'è un tavolino o qualcosa. Eccolo qua. Posso iniziare a decifrarlo? E cerca riferimenti al diavolo. Ah, sì. Facciamo che inizia a decifrarlo, Vianic. E ci metterei un'ora a completare una pagina. Ok. Vabbè. Possiamo fare la cosa di Nibel. Anche tu. Tanto potete fare... Esatto, tu non devi dormire. Sì, non hai bisogno. Io nel bosco ho trovato un libro, una pergamena. Magari possono servirvi. Vi tiro fuori in che senso hai trovato un libro, una pergamena? Quando stavamo venendo qua durante una sessione di allenamento ho trovato un libro all'interno del bosco. Glielo passo, c'è cioè il libro con scritto Libro Morgana Laconia prima. E c'è una pergamena con io ho scritto Raccolta Magie. She knows? Mif knows? Sì, credo. Mif si ricorda di questa qui, esatto. Questa qui l'ho già sentita. Aveva tipo creato una spell dove tu potevi assorbire il contenuto di qualsiasi tipo di scritto e memorizzarlo. L'ha fatta anche il Magister, tipo vedete questa cosa... questa realizzazione nella sua faccia. L'ha fatta anche il Magister. Sembra comodo, se può servirvi. C'è un limite, almeno quello che c'era scritto, quello che ho trovato. Cosa dice? Quindi possiamo dicciare, cioè decifrare il libro e assorbirne il contenuto direttamente? Sì, impariamo la spell. Sì, c'è scritta no. Sulle cose che... È una spell perduta, cioè almeno dalle ricerche che ho fatto al tempo. Apprendere alla perfezione il contenuto del libro non vuol dire decifrarlo. Ok. So ripetere a memoria i simboli che c'erano dentro. No, sì. Ok. Okay. E vabbè, però potrebbe essere una spell utile. Avete oggetti da riparare o qualcosa del genere? Oggetti da riparare? Direi di no. La pistola non si è ancora rotta, però è il momento giusto di scoprire cosa succede. Cioè, sì, giriamo, cioè, mi giro verso Cici. Tu, Cici, hai qualcosa da sistemare? Tutte le cose che ho con me me la date lieto. Ok. Non c'è niente. Lei non mi ha ancora ringraziato, tra l'altro. Ti ha ringraziato. No, non è vero, Fetti. Spagliamo nella resistenza. E... Perbere. Vedi. Metto la pulce all'orecchio ad Adone. Cosa rotta ce l'hai? La tua anima. No, l'automa! Il cuore. Adone cuore. Un attimo, fruga nella sua borsa e tira fuori due pezzi di automa che ha, perché sono due. Uno è un braccio e l'altro è? Cosa facciamo? Granaggio. Sono infetti. Se lo erano, saremmo morti. Probabilmente 2 anni che ci viaggiamo insieme. A sto punto, sì. Devi toccare gli oggetti per ripararli. E non so cosa vuoi fare, soprattutto. Ho il martello per riparare. Quindi, se in caso abbiate qualcosa per riparare, la pergamena su cos'era? Non è un martello magico il tuo. È un martello magico, sì. Martello magico è quello che aveva trovato qua sull'isola. Adone ci pensa. No, questo era in viaggio per l'isola. Sì, l'ho trovato sulla nave, sì. La nave. E dice: non credo. Quegli automi non sono indistruttibili, ma non sono nemmeno facili da combattere. O no, Pianic? No, è una cagata, non li abbiamo sconfitto un automa. Sì, l'avete sconfitto in 2 turni. Quindi, cagata, dico. Sì o no, Adone? Ti serve ripararlo? Fondamentale per la build. Allora, Adone vi espone quello che pensa che sa. Questo automa idealmente non è infetto, ma non ve lo posso assicurare. Quindi non lo so. 2. Non so se ripararlo lo renderà aggressivo e violento contro di noi. Cici alza un ditino timida. Prego, Cici. L'impero ha fatto qualche scoperta sul morbo che forse voi non sapete. Lo condividi, assolutamente. Pare che il morbo venga trasmesso dalla polvere che rilasciano i corpi quando esplodono. E il metallo in sé non ha nessuna caratteristica strana. E gli automi che vengono fuori apparentemente non sono alimentati da niente. Un'idea che ho avuto però è, alla peggio, lasciarlo libero per la città. Creerebbe sicuramente panico e problemi per l'impero. Sicuramente non si evitano queste persone. Sono d'accordo, non ho detto di farlo. È solo una sicuramente diventerebbe una priorità per il Magister da risolvere. Ma non sarebbe neanche una priorità così difficile da risolvere. No, no, non è quello il problema. Il problema è che se c'è un automa vuol dire che un cristiano è esploso da qualche parte e quindi ha infettato. E devono arginare la piaga. Quindi ci sterminano tutti sull'isola. L'impero non stermina la gente, creare di quarantena dove... dalle quali la dove la gente muore. Probabilmente sì, se però... cerca di uscire. Bloccano i porti. Vuol dire che non si può uscire poi. E siamo in un'isola e abbiamo quel coso. E indica dalla finestra gentilmente piattata dove c'è il serpentone. Vede quanto sarebbe veloce la quarantena, non siamo nell'impero, non hanno... Sì, non è un'isola. Voi pensate che la corona nera si farà bloccare così? No, per niente. Anzi, sei anche peggio, probabilmente. E in ogni caso non sembra che lo strumentopolo di Nibel riportasse in vita per intero l'oggetto. Cioè, lo aggiustava, quindi abbiamo solo un pezzo, quindi dubito che esca un automa intero. Beh, questa era una possibilità. Grazie, posso... Cici, per il tuo grande aiuto. Sì, grazie, Cici, è stato fondamentale il tuo aiuto. Ha realizzato una cosina che voi non avete realizzato. Cosa ha realizzato? Cici, cosa? Cici, condividi con noi i tuoi pensieri. Aspetto che facciate le vostre scelte. Secondo me realizza perché questo coglione c'ha un pezzo di automa in borsa. Però l'ha già visto, quindi... Esatto. E vabbè. Una ci pensa e dice... Posso decifrare il libro e vedere se questo Penny può essere utile in qualche modo. Sì, tu fai quello, noi ne guardiamo Nibel che prende a martellate l'automa. D'accordo, prima che la facciamo. Sì. Per motivi temporali, una di queste cose succede prima. Cioè la martellata alla cosa. Sì, certo. Dove volete farlo? Cioè in camera, uscire fuori? Infatti, effettivamente, se sta roba si anima e rilascia polvere, che cazzo facciamo? Siamo infetti tutti. E dopo si ci tocca andare al tempio, evocare Arba e chiedere: papà Arba, per favore, ti puoi mangiare di nuovo l'infezione? Ma poi povero Nibel deve andare ad ammazzare il suo tizio stupido che sta seguendo da anni, cioè... E... Porti pezzi in spiaggia e mi metto a farlo lì. Ah, andiamo in spiaggia tutti assieme? Vado io, non sì, c'è bisogno. Così siamo proprio la sulla faglia. Porto. La spiaggia devi andare molto in là, alcuni chilometri di camminare. C'è un bagno. Tipo uscire dal paese, tipo non sì, so sì, farmi, sì, sì, andare anche sì. 500 metri fuori dal paese su una pietra, roba del genere, mi metto a picchiare lì. Vai da solo o qualcuno? Dico agli altri se c'è il pericolo che rilasci delle polveri, non mi sembra il caso che veniamo tutti. Sì, ma come facciamo a sapere se dopo tu stai bene o male? Se si tratta di polveri, non sarebbe sufficiente tipo stare sotto vento. Sì, non abbiamo modo di creare il vento, però. Io sì. So castare storm. E allora? Siete disposti a rischiare, sì. Cici? Ormai le polvere sottili nell'aria? L'amianto. Le strisce. Puoi spingere la polvere nella direzione opposta al villaggio, alla città. Verso il mare, preferibilmente. Verso quell'affare gigante. No! Non credo che possa cambiare qualcosa. Vabbè, comunque... Non c'è un tetto di sto posto dove poterlo fare, invece che dover separarci tutti di nuovo? Chiede Sirio. No, se volete venire, potete venire lo stesso. L'importante sì, no, andiamo tutti insieme. Andiamo. Allontani eventualmente. Anche Adone? Adone no, riesce a decifrare... No, ci vuole no, un'ora, Adone... quindi... infatti. Allora... Sta io... qua che decifri le cose. Che siamo a posto. Cioè... Facciamo così. Adone evoca un coniglio e te lo dà. Io posso percepire quando il mio coniglio muore. Sì. Allora faccio così. Ti do un coniglio a te, Miff, e dico... Se succede qualcosa, ammazzalo. Cosa? Non è... che era tutta cogita e fatta. Devo sempre fare tutto io, quindi tipo no! Per la collottola. No, mi fai da un calcio. Sì. è l'unico metodo che abbiamo per comunicare, così so che se succede qualcosa a voi, è successo qualcosa. Miff guarda, prende il coniglio tipo la body di Simba, no? E guarda i suoi occhi vitrei, no? E fa... No, quello che fa mio papà è effettivamente buono da mangiare, quindi dai, ci sta. E non può provare dolore, sappilo. Vabbè, dai, mi sento meglio. Coniglio, sto mentendo, Adone. Sta zitto, attimo. Io non ho adulto fidato. Cosa ti fa, Adone? Segna in questo disegno dove ti ha toccato. Ok. Vi staccate. Mia. Uscite dalla città in maniera hidden, però comunque il Magister sa che c'è Adone qua, non che ci siete voi, quindi anche se incrociaste qualcuno, sti gran cazzi. E ci sono pesci. Che altra Cici magari che si va a scoprire, però c'ha i vestiti diversi. Esattamente. Bella non best script. Quando siete in una zona sufficientemente lontana, sufficientemente libera, Cici precasta Storm, cioè la tiene pronta per lanciarla appena tiri la martellata. Quando vuoi. Smetto, trovo una pietra il più piatta possibile. Mm-hmm. Sì. E ci metto i pezzi sopra, li tengo fermi. Vedo che gli altri siano lontani, almeno 3-4 metri. Sistemo i pezzi più vicini possibile tra di loro. Che pezzi ci sono? Cioè, c'è il braccio e poi c'è la scapola, tipo. Cosa non si capisce che parti siano, perché sono degli assi di metallo e degli ingranaggi. Cioè, non corrispondono a parti del corpo vere. Ok, vabbè, li metto vicini e nella speranza che il martello faccia il suo dovere. Guardo che gli altri appunto siano abbastanza lontani e faccio un cenno a Cici di castare e alzo il martello pronto per battere. Poi comincio a battere il metallo. Inizia a soffiare il vento e senti che basta un solo colpo per fare la cosa che devi fare. Cambio di inquadratura. Telecamera dietro Nibel che alza il martello, telecamera davanti a Nibel, Nibel che abbassa la cosa, cambio di inquadratura, cambio di inquadratura, cambio di inquadratura. Tocca il metallo, il suono è inconfondibile, un rumore alieno, il modo in cui vibra il suono e come si propaga non ha niente a che fare con i metalli che avete presente, è veramente una lega peculiare, il suono dura tantissimo, e iniziano a vibrare, a tremare, e i pezzi si avvicinano tra loro ed emergono dalla struttura altre parti metalliche che non erano presenti prima. Non riuscite a capire se si stiano generando da lì o se le stia assorbendo dal terreno o da altre parti, ma nel giro di 30 secondi si riforma completamente una creatura, un'entità. E dico, abbiamo anche Long. Anche l'immagine da qualche parte, sicuramente, non so dove, ahimè. È fondamentalmente uno scheletro meccanico con la parte superiore della faccia fusa con il resto del corpo, cioè con il resto del cranio. Ha in cima alla testa un ingranaggio e tutte le parti sono meccaniche. Notate che ha due parti, due scheletri uno dentro l'altro. Quello esterno è molto liscio e si può aprire, rivelando all'interno tutta una composizione di ingranaggi, assi, linee, bastoni, che non capite quale sia il loro funzionamento. Cioè è veramente molto complesso e sembra più complesso del necessario. Io qua ho la versione in pixel art fatta da me di questa cosa. E la creatura inizialmente è immobile dopo essere stata riassemblata. Non è stata emessa nessuna particella di polvere di nessun tipo. E faccio passi indietro io. La creatura è come se fosse in preghiera. In che direzione? Una direzione a caso, una direzione in cui stava puntando il braccio, okay, quando si è ricomposto. Quindi realisticamente verso sud-ovest, ma a caso. E è il nostro momento di farsi saltare in aria questo bellissimo scheletro di metallo. Lo uccido il coniglio? Aspetta. Non ancora, però vediamo cosa succede. E Cici inizia a parlare, e cioè ti interrompe. Avevo una teoria, ed è che le teorie non mi fate. Vabbè. Ed è che queste creature non sono vive, nel senso sono oggetti, e il fatto che tu sia riuscito a ripararlo in questo modo sembra comprovare la teoria. Ho fatto i test, il martello non è capace di curare le ferite, quindi coincide. Quindi sono oggetti controllati da qualcuno? Se ammazzano la gente? Non sono un'esperta di questa cosa, ma credo di no. Abbiamo dei dipartimenti di ricerca con i quali collaboriamo all'interno dell'esercito, e la loro teoria più accreditata sembra che siano nella loro natura. E Il lieto si avvicina allo scheletro. Uh-huh. Non succede niente finché... Cioè, non fa niente. È immobile. Immobile. E allora vorrei cercare di fare quello che un avatar di un dio fa meglio. E cercare di capire se possiede qualcosa da potermi dare questo oggetto. Allora, interessante. C'è un residuo. Un residuo. Come... Diciamo che l'anima, che è quello che stai cercando, lo possiamo immaginare come una sfera perfetta. Qua c'hai uno spicchio di questa okay. sfera perfetta. Sono capace di estrarla? Sì. Cioè... Sei capace di estrarla? Sì, la magno. Devi affondare i denti, è più una roba simbolica. In un punto sì, a caso. Sì, sì, sì, gli do un morso. Non hai mai sentito niente di così duro in tutta la tua vita. Sì, la, non senso, è che non l'ho fatto sì. per spaccarmi i denti. No, cioè, no, è no. una... Però noti che se tu tiri un morso a una barra di metallo, un minimo di reazione c'è. Qua assolutamente niente. È proprio è la cosa più dura Ring. Che... Sì, esattamente. Tuttavia è una roba simbolica che ti permette di estrarre questa cosa. E come se fossero briciole di pane, riesci a percepire che il resto dell'anima è da qualche parte. E mi giro verso Cici e... La teoria è quasi corretta. E molto probabilmente è qualcuno che riesce a separare la propria anima e a infilarla all'interno dei costrutti. Per controllarli, magari. E... Ce ne sono degli altri in giro. Nel mondo. Queste cose non dovrebbero essere... delle persone mutate dalla piaga. Luira, sì. E però probabilmente la persona muore quando vengono generati. L'anima della persona che c'era precedentemente, no? Sembra l'anima di una persona, no. Sembra l'anima di una persona. Di una persona? Sì. Ok. Cioè, è identica alle anime umane. Ok. Magari una parte viene mangiata? Assorbita? O è l'ultima parte che rimane? In modo da poter... Hai creato... L'oggetto. Ti interrompo perché sta succedendo una cosa. Hai creato una piccolissima incisione su una spalla, un lato del braccio di questa cosa, e hai percepito l'anima separata. Per qualche motivo che non riesci a comprendere completamente, sembra che l'hai attivata e che ora stia cercando di entrare completamente dentro quella creatura. Cioè è una cosa che percepisci tu. Tant'è che... l'anima rimanente, cioè sì, l'altro... Sì. Il bloccone dell'anima che è... 99%, esatto. Okay. Tant'è che l'automa, che finora è rimasto immobile, inizia a tremare, vibra, le braccia smettono di essere in preghiera, si alza in piedi e è molto più alto di voi, è 2,5 metri, quindi anche più alto di Nibel, credo, e si muove tremolando, scende dalla pietra sulla quale l'avete generato e inizia a incidere un messaggio sulla pietra. Oh! È scritto in comune? È scritto nella lingua di Oclica. Che dovrei saper leggere? Sapete tutti leggere perché... L'impero! Lingua... Sì, è l'impero, esatto. Sì, esatto, sì. Lo sappiamo common, adesso. Sì, vabbè, sì. Nibel non lo sa lei. Sì, probabilmente no. Fatto. Il messaggio recita, e lo legge ad alta voce Cici, Solomon Rosencrantz non è morto. Dio! Solomon... No, è già stato citato in Faithless Solomon, sono sì. sicuro. Ma non mi ricordo quando. Chi cazzo è? Cici aggiunge, era il vescovo di Oclica. Il vescovo, porca troia! Cazzo è da lì che vedi il braccio. Noi eravamo nella stanza quando il vescovo è saltato in aria. Cioè, noi no, Lieto no. Adone, ah, Zanzan. È quello che... La okay. creatura continua a scrivere, tremolando. Io soffro. Non c'è un inferno, ma molto peggio. Questo ricorda qualcosa che ha detto il nostro amico Adone. No, scusami, anche il nostro amico Adone, ma nello specifico un'amica che ci ha lasciato a questo punto. Eh sì. L'automa si tira su, non ha gli occhi, non ha modo di vedervi, quindi inizia a tremare e inizia a camminare in una direzione a caso, cioè verso il mare. E lo raggiungo e cerco di dargli un altro morso per finirlo, tipo. Ok. E quando lo fai, lo colpisci praticamente alle spalle, estrai completamente la sua anima e l'automa cade di faccia per terra. Questa volta completamente immobile. Cici se ne esce con... Cristo santo, questo sì che era stato strano. Vabbè. Grazie, Cici. E... Ho fatto il coniglio. Tipo, mi fa lì. Questo coniglio. Coniglio. Cosa... No, non ce n'è bisogno. Cosa facciamo? Lo per sicurezza ridò una martellata all'automa. La parte dove è stato danneggiato da Lieto si rigenera. È l'unica differenza che c'ho. E... Le persone che muoiono per la piaga bronze, quindi non sono veramente morte. Sono intrappolate. Un destino peggiore da qualcuno. Della morte. Esatto. Da qualcuno o da qualcosa che le intrappola, mantiene. Cici se ne va verso l'albergo, cioè proprio ne ha avute abbastanza. Comprensibile. Nice. È la reazione più umana che ci sia in questo paese. Ed è con noi da nemmeno un giorno, oggettivamente. Ma sono 15 minuti a questo punto. Sì, veramente. Sì, infatti. A mezza giornata, dai. Mezza giornata. E vabbè, io direi che torniamo indietro a vedere se Adone è riuscito a tradurre almeno una pagina. Lo lasciamo sulla spiaggia, faccio in giù. Guardo l'automa, dico, questo metallo è un ottimo metallo. È vero che era una persona, però potrebbe tornare utile. Lo vuoi lanciare contro qualcuno? Ti assicura che la persona non c'è più a questo punto. Penso che molte persone farebbero la fila per poter studiare un automa del genere, ma a parte quello, perché non utilizzarlo per qualcosa di utile? Un'armatura, delle armi. Ma non riesce a lavorarlo. Per adesso? No, magari con un... Dove ve lo mettete un automa così grande? Un po' tempo di corsa in spalla. Secondo me è da scappare, vedete come gli sgabelli che li puoi... Sì, lo compatti tutto. Esatto. Vabbè, scusami, effettivamente ha un sacco di giunture, quindi tanto vale prima gli pieghiamo le gambe. Ma è morto, la testa non può camminare. Nibel, più che altro, puoi cancellare il messaggio sulla roccia? Riparandola, sì, dovrei poterlo fare. Sì. E allora martello la roccia. Martello la pietra in modo che si ripari il messaggio. Ricordatevelo per bene. Questa è l'ultima volta che potrete leggerlo. Solomon Rosencrantz non è morto, io soffro, non c'è un inferno, ma molto di peggio. Esatto. Ok, cioè... Bonk. Riparo la pietra. Perfetto. Questo sasso è un sasso. Sì, comunque però c'è l'automa qua, comunque non mi pare una grande idea. Cioè, se non altro, non così all'aperto. Tolgo la giacca, metto la giacca all'automa, e poi piego le gambe sul dorso e poi chiudo la giacca. Riesci, e metto il cappello. Riesci a fare tutto, non è un problema. Il problema è un altro, è il fatto che questo scheletro peserà più di 200 kg. Ok, ma io ho 6 a sollevare. Sì, no, è solo che... Cioè, è un peso, stai carriando un peso elevato. Vabbè, ma facciamo il weekend Bernie, lo aiuto. Facciamo una spalla e una spalla, tipo l'ubriaco. Sì. Il problema è che ha le gambe scoperte, qualcuno ha, non so, un tessuto per poterlo coprire. No, vero. Oddio. Io ho dei vestiti di scorta, gli metto dei pantaloni, sì, ce li ho dei pantaloni. Tipo. Poi potete... Vestirò i pantaloni, gli metto i miei guanti al mio cappello sopra. Vabbè. Non so come cazzo fa a coprire l'ingranaggio, però. L'unica cosa sono i piedi scoperti, nella speranza che non si notino. Vabbè. Weekend col porco. Ma che cazzo me ne frega, mi tolgo le scarpe e gli metto le scarpe. Vabbè. Ci sta, è perfettamente mascherato. Come scopri che hai addosso? Come, cioè, eh? Allora Biff si toglie il collar che ha e glielo mette per coprirlo. Ho la giacca e i pantaloni. Sì, ho messo solo la giacca e i pantaloni di scorta che c'avevo. Ah, ok. Devi tenere un naso e i Cici è già arrivata nell'hotel, sì. Nella locanda, e voi siete per strada che state trascinando 250 kg di Cristiano, perché travestiti e ossa. Sì. E se qualcuno ce lo chiede, ha bevuto troppo e lo stiamo semplicemente riportando all'albergo. Sì, avete anche un piano B. Gli faccio brutto. Gli faccio bruttissimo. E passiamo ad Adone. Quando arriva Cici, hai quasi finito di decifrare la prima pagina. È un processo veramente lungo. Non è questione di skill, non è questione di niente. È solo che devi... È un cifrario particolare per cui riga per riga devi cambiare la chiave di cifratura, segue delle regole matematiche. È una roba che riesci a fare, però ci vuole del tempo. Prima di fare questo processo... ti chiedo quale sigillo vuoi decifrare per primo. Se c'è quello più simile a quello di Temofab. Ce n'abbiamo uno simile a quello di Temofab. Vai, facciamo quello. Quando sei halfway through, cioè quando è troppo tardi per iniziarne un altro, ti pare chiaro che questo rituale come titolo ha cancelli per l'inferno. Pianic, perché in ogni campagna metti davanti alla stessa Temofab. Possibilità? Hai scelto Temofab. Hai ragione. Devi scegliere quello che volevi. Quindi... Hai ragione. Esatto. My bad. No. Io, Sirio, potevo nascere intelligente. Invece hai scelto di nascere Fanny. E... Cazzo, che divertente. Ma stavo la stessa cosa. Sei quasi alla fine, quindi ti è chiaro quasi tutto. Ti manca proprio dei passaggi finali. Questi rituali, cioè quelli del grimorio che hai in mano, devono essere effettuati in prossimità di una ley line. Tu sai il che cosa, non sai né il perché né il per come. Quindi devi fare, perché è un libro di prescrittivo, no? Cioè di esatto. Tra l'altro, scusami, vedete, piccola parentesi. Il coglione mi ha detto troviamoci in spiaggia. Ma quale spiaggia? Lì no, ti ha detto fuori dalla città. Ti ha detto fuori dalla città. No, cioè gli outskirts. Non credo. No, ha detto spiaggia. No, fuori dalla città. L'avevo detto io spiaggia. Anch'io avevo capito fuori dalla città. Sì, l'ho detto io spiaggia per andare a martellare. Fuori dalla città è uno solo, perché c'è una sola strada che arriva ad Esboson, quindi è lì. Cioè, non puoi sbagliare. E dicevo? Sì, Cancelli per l'inferno richiede che tu faccia un rituale in prossimità di una ley line. Ce l'abbiamo, check. Ha delle componenti materiali che puoi tranquillamente comprare al mercato. Sono oggetti di uso comune, parti del corpo, di animali e cose del genere. E il rituale in sé consiste nel tracciare un segno per terra. E non ti è chiarissimo cosa succederà dopo, però hai un'idea, una buona idea. Una domanda, Pianic, però. Io effettivamente, per quello che so, non dovrebbe funzionare questa cosa. Già. Quindi o la tipa ti ha inculato 12 monete. Ti ha inculato 12 monete, giusto? Oppure le tue precedenti conoscenze erano incorrette. Ok. Invece questa traduzione letterale dall'inglese. Va bene, io dopo ho un'idea sull'altra pagina da decifrare. Comunque, a interrompere la tua quasi chiusura è Cici, che rientra in camera, si siede sul letto e rimane così. Tutto bene, Cici? No. Gli altri sono vivi? Sì. Arrivo. Ok. Vuoi... parlarne? Hai presente la piaga bronzea? Certo. Le persone non muoiono. Ah. Rimangono incastrate in un limbo eterno. Ho dei amici e parenti che hanno subito questa malattia. Adone si alza e le mette una mano sulla spalla. Dice: mi dispiace molto, Cici. Lieto sembra essere in grado di liberarli. Forse dovrei trovare i loro cadaveri. Tu hai capito cosa ha fatto Lieto all'automa? Non mi importa. Adone sta un attimo pensando, poi ci pensa e dice: non ti rivelerò altro che tu non voglia sapere, perché non voglio disturbarti, ma se sei curiosa, vuoi essere sicura di fare la scelta giusta, puoi chiedermelo. O chiedere meglio a Dieto. È stata una giornata impegnativa. Avremo tempo nei prossimi giorni. Sì. Non ti volevo disturbare col tuo studio. Per favore, continua. Dopo un altro paio di minuti arrivano Lieto, Nibel, Nif e il loro amico. L'avete portato così? Sì. Buona notizia, ha funzionato. Cattiva notizia, ha funzionato. Coniglio. Grazie. Si riprende un attimo il coniglio, lo accarezza e dice: quindi avete scoperto che Lieto, e guarda un attimo Lieto, poi riguardo voi, può liberare questi automi? La morso. Sì. Immaginavo. L'anima delle persone morte per la piaga bronzea rimane attaccata agli automi. E ripeto a Eddie il messaggio che ha scritto l'automa. Vai Eddie, buona. Adone. Senti, Adone, la crasi. Sì, pensate. Adone dice: quindi il vescovo ancora era vivo, adesso ci hai pensato tu, Lieto? Sì, sembrava, non sembrava dispiaciuto di questa, della fine che ha fatto, ecco, anzi ha detto che soffriva, però sì, no, nel senso del fatto che me lo sono mangiato, sembrava molto sofferente nello stato in cui era. Quindi me lo sono fatto. E guarda un attimo l'automa e dice: non ha rilasciato polveri, quindi no. Pulito come una rosa. Guarda un attimo e dice: ho avuto un'idea che potremmo utilizzarlo come, in verità ho un paio di idee, ho decifrato una pagina del libro. Allora, piano A e piano B. Piano A, possiamo utilizzare l'automa come, appunto, c'è un termine in inglese che non mi viene in mente, adesso dico come blackmail, non è blackmail, no, non è, sì, se vogliono fare qualcosa o comunque fare casino, diciamo che noi abbiamo un automa pronto ad esplodere e a infettare tutta la città, senza rivelare il suo luogo, ovviamente. La seconda cosa, e ti riprende il libro, è: possiamo provare a mandare all'inferno il Magister. Questo libro, cioè Temofab, ha un rituale per aprire le porte dell'inferno. Servono dei materiali facilmente ottenibili, tracciare un segno sulla spiaggia in prossimità di una ley line. Appunto. Però c'è un'osservazione sul fatto che non abbiamo la certezza che funzionino questi rituali. Giusto, bisognerebbe provarlo prima con qualcuno di cui ci fidiamo. facci sapere se è andato davvero all'inferno. E a chi vuoi chiedere? No, ci vado io. No. Possiamo vedere se funziona il rituale, nel senso, possiamo ripeterlo, credo. Cosa vorresti fare? Legarti una corda e tirarti indietro poi? Sì. Non penso funzioni così, sai? No, infatti non faremo questa prova, ma possiamo vedere se il rituale funziona. Dobbiamo prendere delle cose, prenderne il doppio. Ma hai già parlato con il tuo amico? Con l'amico speciale che poi... Allora ci penso e dico no, effettivamente. Riegel? Dimmi. E prendo il libro e lo guardo, come se potessi leggerlo, boh, e dico, questo rituale funziona, secondo te? L'avete recuperato dalla corona nera? Sì. Le sfere che si occupano dei culti della corona nera conoscono dei rituali che in teoria non dovrebbero funzionare, e in pratica esistono dei casi limite dove si riescono a realizzare. Io e mio fratello volevamo saperne di più di questa cosa, ma il tempo ci ha impedito di farlo a dovere. Quindi dici che abbiamo la certezza che queste cose funzionano? La certezza mai. Vorrei dire mamma, però non... Di un po'. Se volessimo uccidere un... Vedete, ci penso un attimo e dice, tu quando sei morto? Che anno siamo? Nel 1622, giusto? Una decina d'anni fa. Ok. Al posto dove ero era difficile stimare il passaggio del tempo. Immagino. E... tu hai qualche consiglio, qualche idea su come uccidere un magister? Non penso neanche sappia cosa sia un magister. Sì, sì. Io infatti guardo... Adone sta parlando da solo! Sì, sì, io guardo Cici, guardo Cici, dico, è normale, tranquillo. Tanto lei è catatonica. Cici è ancora così. Esatto. Erano dell'impero loro due. È vero. Scusa. Scusami, hai ragione. Torniamo al character. Dopo averla vista in azione, credo che il modo più facile sia mettere loro in tasca un artefatto che vuole Promezia. Quindi la conosci anche tu, Promezia? Mi ha mandato lei all'inferno. Ah, interessante. Tua mamma, guardo lì e dico, credo che tua mamma abbia mandato all'inferno il mio amico. Il dio della morte. Sì. Si è andata sufficientemente bene, direi, visto gli sviluppi recenti. Direi di sì. Potrebbe anche ringraziare, cioè non è un problema, quando vuole comunque. E comunque... visto che ci stai parlando, tira fuori dalla tasca di nuovo l'affarino. Ah sì, prende... posso? Lo prendo e dico, tu hai mica idea di come utilizzare questa cosa a nostro vantaggio? Non ho mai visto niente del genere. Perfetto, non ho mai visto niente del genere. Però... E sono abbastanza sicuro che Promezia ne sarebbe interessata. Se lo vuoi dare a Madre... sospira e dice... Non c'è modo di trovare tua madre stanotte, vero? Stanotte non lo so, ma... Domani possiamo cercarla. Questo dice, dobbiamo scegliere cosa fare l'indomani, però, se presentarmi all'incontro all'alba o meno. Cos'è che potrebbe mai volere un magister? Arrestarmi e ovviamente portarmi in una centrale. Sì, sì, più o meno è pazzito. Esatto. Gentile da parte sua darti una serata? Immagino di sì. Gli tendiamo qualcosa? Secondo voi sarà da su? Io incontro una persona del genere, cioè mi... No. credo sia abbastanza forte da non aver bisogno di soldati con sé. Mi fanuisce proprio fortemente. Proprio per questo che secondo tu me... Tu lo sapevi che c'erano due magi stessi sul viso. Io? Per questo che secondo me l'idea migliore è mandargli addosso per un... Il problema è trovarla e soprattutto posso non presentarmi all'incontro di domani, ma... Scusatemi un attimo. Dietro. Promessa è tua madre, giusto? Sì. Non puoi convincerla tu di... non lo so... Cazzo ne so, piangere e dire... No, mi giro fatto verso il dietro. Mi giro verso il dietro. L'impero cerca gli avatar. Sì. E lei ha bisogno di qualcosa... Cioè, lei attaccherebbe l'impero solo se... avessero qualcosa che lei vuole. Lo scettro del Magister? Mia madre potrebbe attaccare l'impero anche per sport, probabilmente. E... Sì, ma abbiamo la certezza... Cioè, tu conosci sicuramente tua madre meglio di noi. Attaccherebbe l'impero se tu fossi in pericolo? Questa è un'ottima domanda. Alla quale anni di terapia non avrà tua risposta? Fammela riformulare. Attaccherebbe l'impero se suo figlio fosse in pericolo o attaccherebbe l'impero se sapesse che suo figlio, che è anche un avatar, è in pericolo? La seconda. Abbiamo la nostra esca, allora. Utilizziamo Adone o utilizziamo Lint? Non credo che Promezia sia interessata alla Adone. Non credo, nemmeno io. In ogni caso, non ti lasceremo andare lì da solo. Già. Per non noi sembra essere interessata al furthering della sua conoscenza magica in generale. Quindi qualunque cosa che attira il suo interesse potrebbe essere anche il piscione gigante fuori, potrebbe essere una cosa che l'attira, sì. non possiamo saperlo. Può essere qualsiasi cosa. Again. Ci serve qualcuno che avvisi Promae mentre noi siamo all'incontro. Ci serve qualcuno che l'avvisi mentre noi siamo all'incontro. Modo che ci venga. Possiamo fare una cosa. E per noi è sempre alla ricerca di artefatti da rivendere col suo negozio. E potremmo ritornare dall'antiquaria e chiedergli se domani mattina fa uscire una notizia dei vibe su alcuni artefatti, strumenti. E indico tipo il cadavere di metallo, la moneta, la pletora di loot di questa campagna. Esatto. Cioè, tipo... Non ci presentiamo all'incontro di domani all'alba? No. Noi andiamo adesso dall'altra Promezia. Le facciamo sapere queste cose nella e le diciamo dove saremo domani mattina, senza nominare magari il Magister. E poi incrociamo le dita. D'accordo. Qualcuno resta con l'automa, magari? Sì, Cici. Va bene. Volete... Tipo, vi fa. Volete lasciarla da sola con l'automa? Metto l'automa sotto il letto. Non ci sta. Esce da qui là. E... mi sembra abbastanza traumatizzata da non fare niente di pericoloso per oggi. Se è quello che ti preoccupa di Cici. Oh, non l'ho visto. Vabbè, speriamo non prenda vita da solo. No, quello non succederà. Ci si sono tolto l'automa sopra. Ho bisogno di chiedervi cosa fate adesso. Cioè, avete due stanze... una stanza con tre letti, una stanza con quattro. Volevo chiedere una cosa, del vero. Avevo bisogno che Mifio mi faccia dormire e sognare. Non mi ricordo se ho già fatto un uso di un aeromancer da quel punto di vista. Non l'hai fatto. Ok, posso farlo. ha un range nei romanzi. Cioè, io posso tranquillamente sì. addormentarlo adesso, andarmene a fanculo. Ciao, papà. E andarmene a quel paese e intanto farlo studiare. Sì. Quindi, volendo... l'innesco il tuo coso, sì. Se lo fai adesso, okay. lui non può studiare il libro come vorrebbe. Allora ti fa... Senti, se vuoi lo posso fare adesso, se vuoi lo posso fare più tardi, dipende da cosa vuoi fare col libro. Una sezione su Yadama. Sicuramente. Va. Io, il mio altro tentativo era provare a vedere se c'è qualcosa su Braxtaras. No, fermo, Bianic, il diavolo che... Io li confondo, che era presente con Arva alla mia nascita. Non mi ricordo mai, non è Braxaras, è lui. Oxadak, c'ha due o tre nomi. Ah, ok, vabbè. E comunque appunto dico Braxaras, volevo provare a vedere. Dacci un'occhiata, tecnicamente... Cioè... tecnicamente... concentrati su quelli che sono i sigilli attivi. Perché se dobbiamo fare affidamento su qualcosa, facciamo affidamento su chi è libero ancora. E di certo non è Braxaras. No. Io non mi ricordo una cosa. Voidart e Braxaras sono la stessa cosa? Sì, è un altro dei suoi nomi. Perfetto. Allora, Adonai dice, d'accordo, proviamo a dare un'occhiata. E cerca il sigillo di Yadamak a questo punto. No. Il sigillo di Yadamak è identico a quello normale. Non è alterato. C'è Yadamak, effettivamente. C'è Quibble. Sì, quello di Quibble è alterato. Quibble è uno dei pochi che è l'altro che funzionava. Sì. Di default. No. No? Quibble funzionava solo esclusivamente se lo usava Kayel. Meta, l'abbiamo detto. Ok. Sì, l'abbiamo detta. Okay. Cioè, quindi è no. E allora abbiamo Yadamak che... Temo Fab e fucking guess. Però il fatto che Yadamak sia l'unico originale. L'altra nota di meta che aggiungo è che l'altro momento in cui qualcuno ha visto un pentacolo modificato funzionare era lieto su una leyline. Esatto. Ma infatti ci ha detto che bisogna farlo sulla leyline. E però, cioè, aveva effettivamente funzionato. Cioè. Dopo tanto tempo ti posso anche dire che diavolo era, ma mi devi dare un secondo perché lo devo cercare. Quindi fate voi e poi vi avviso. Boh, a questo punto magari facciamo che studia il rituale di Yadamak e poi vorrebbe provare a fare una cosa in sogno. Ok, fammi sapere per quello. Mi da studiare. Grazie Adone, sai? Wow. Ringraziamento. Dai su. Niente lo stream. Magari, guarda che magari può essere la mia ultima notte di vita. Devi trattarmi bene. Vedo l'ora di vedere cosa va nella tua testolina. Il diavolo, il sigillo che hai visto tu è di Nomia, che è un diavolo minore in realtà, cioè non è tra i più gettonati. Sfigatone. Come te, lieto? Scherzo. Dai, non l'ha detto Adone, ha detto Sirio che ha fatto. La bocca che si materializza. Esatto. Però full HD, super realistica. Sì, sì. Meta okay. Pigeon. Come vi dividete, cosa fate? Ma Nibel va a cercare se ci sono dei bagni pubblici o roba del genere per potersi lavare per la prima volta in una settimana. Tipo. Ci sarà l'hotel con doccia. Nella locanda c'è un'apparecchiatura di mana per fare la doccia calda. Ed è compresa nel prezzo della stanza. Mi ferito vanno a dare allora la dolce notizia alla Promezia. Perfetto. Sì. Scende dal letto in vestaglia e viene ad aprirvi e tipo avete idea di che ore sono? Sì. Che ore sono, però? È tardi, passata mezzanotte, okay. Se non le due. Sì, e... abbiamo un grosso favore da chiedere. E... potrebbe esserci una ricompensa monetaria non indifferente dietro questa richiesta. E anche delle prospettive lavorative all'interno della mano nera, si interessano. Corona nera. Corona. Mamma mia. La mano nera è il dipartimento di C'hai Roma. L'Egitto, vabbè. L'avevamo già parlato di questa cosa. E... ti piace un sacco Skyrim. Ci dobbiamo portare dietro almeno un qualcosa, non c'abbiamo l'automa. La moneta. E... abbiamo qua questo. Tira fuori la moneta, la spacchetta da quella, e gliela fa vedere. E lei risponde secco, come se gli avessi fatto vedere un orologio. Avete una void coin. Una cosa? Una moneta del vuoto. Reference. Sai a cosa serve? Se trovi un cristallo oscuro, puoi farci una roba pericolosa. Quanto è valuable questa cosa? Sono abbastanza rare. Ok. Sono un byproduct di alcune creature magiche, per quanto ne so. Ok, interessante. E... quanto sarebbe più raro invece un automa di 3,5 metri della piega bronzea perfettamente conservato? Quello è molto interessante. Non ostile. Ma anche ostile. Vuoto. Non si è muove. Fermo. Esatto, è fermo. Però è interessante. Perfette condizioni. E... saremmo interessati nel caso a venderlo. Potresti parlarne con tutte le persone, tutti i tuoi contatti della zona, il più possibile, per diffondere la notizia. Sempre on the hush hush, però... farò quello che posso. Ok, e le dico dove saremo domani mattina. Negli outskirts, perfetto. Ok. Avete fretta di venderlo? Sì, avevo molta fretta di venderlo. E specialmente se interessa qualcuno della Corona Nera. Manifesta un contratto, comunque un foglio che è fisicamente uguale a un contratto, e dice: se credo di avere un paio di nomi interessati, gli manderò delle lettere e vi farò sapere. O meglio, vi faranno sapere loro. Buonanotte. Mi aspetto una percentuale se lo vendete. E sbatte la porta. Sì, certo. Bene. Sei pessimo a parlare dietro. Vabbè, dai, no, ma direi che ce la siamo cavata abbastanza bene. Ti va di andare a bere qualcosa? Decisamente. Raga, all'alba ci dovremmo alzare. Zitto, mica dorme. Esatto. È mica che problema. Sì, esatto. Ma è la giornata del Benter. No, ci sta. Sì, dietro viene più che volentieri. Dai, a posto. Proviamo. Stiamo entrando nella giornata del 23 ottobre 1622. Quindi fate serata e al vostro ritorno vi siete... cioè, Nibel e Cici immagino stiano già dormendo. Vabbè, Nibel in realtà è probabilmente squilla l'acqua di cazzo, come si chiama il coso, e fa anche da locanda. Sì. Tipo. Sì. Però sì, Nibel è... probabilmente è giù a bere, adesso è pulito. Tra l'altro lo vedete che ha dei vestiti diversi, che quelli che indossa di solito sono i vestiti da minatore, e si indossa dei vestiti... tipo dei pantaloni normali, di quelli che scendono giù dritti, ha una camicia addosso, sono i vestiti che praticamente avevo usato quando era andato con Adelfo alla centrale per avere il contratto, quindi dei vestiti diciamo molto ordinati, ha una camicia bianca addosso, dei pantaloni eleganti, però non sono pantaloni diciamo costosi, sono pantaloni normali, e non ha il berretto addosso, e ha i capelli legati proprio qua che scendono giù alla coda bassa, e sta al bancone che sta bevendo un qualcosa di forte, eventualmente di mi dici quanto mi costa. Ma in realtà te lo, cioè, se è una roba normale è compreso nella come si dice, nel prezzo della stanza. Se vuoi robe veramente devastanti, invece lo paghi anche 3 o 4 monete, no, in base a... Per ora sta bevendo per sosseggiare, quindi c'ha tipo, sì, non sì, so, allora whisky, robe del genere, non si sta bevendo niente di distruttivo. Conta che le robe del genere sono fatte con l'apparecchiatura, quindi anche a loro gli costano poco. Sì. Lo vediamo in locanda, cioè immagino, oppure c'è un'entrata secondaria dove vai nelle stanze? Lo vedete. Cioè, ok, sì. Inizia a brilla. E anche lì tu direi che c'è nato dentro. Esatto, sì, anche perché domani giornata ora. Meglio prima adesso che deve. Mif che ogni tanto sbatte contro il rito, cioè col fatto che va un po' a tentoni. Si appoggia, esatto. Verso Nibel. e mi fa, oi, ciao Nibel. Nibel, ciao! Ehi, vi siete divertiti? Abbastanza. Decisamente. Quindi... Avete la vostra la camera insieme voi due, vero? E se ridate con una ragazzina, cioè presente dei teenager, no? Cioè proprio... da filtro. E lì c'è tipo il side eye, tipo... Oh. Niente, tu te lo sto dicendo per Nibel, hai un'occasione d'oro. Ti dà una pacca tipo così... Se uno deve sorfaire, siamo tipo... Mi bevo il mio whisky. Si appoggia un pochino al balcone e fa... Dov'è che sono le docce? Sono non troppo distanti dalle camere, al piano di sopra. Bella idea. Si alza. Si tira verso dietro e fa, ti aspetta in camera, va su wobbly. Qualcosa mi dice che è meglio se la seguo, se no questa nella doccia ci affoga. Nella doccia, capito? La doccia, tipo tanto così d'acqua, e comunque no, è da affogare. Ok. Guardo il barista tipo, giovani. Sì, si divertono, c'hanno tutta la vita davanti. Un altro. Dietro lo stinte con la coda dell'occhio. No, probabilmente no. Vi lascio fare quello che volete, perché poi domattina è scriptata come la merda la giornata, quindi... La libera allora, rimane ancora tipo mezz'oretta, per dargli tempo e poi torna su. Comunque siete in stanze separate. Cadranno dei dipinti a un certo punto. No, probabilmente. Wow. Bene così. Importante essere fedeli ai propri partner. Esatto. Veramente. È tolta il foulard. Vedi? È come non è immaginazione. Non è immaginazione quella di Ibra, se poi succede per davvero. Certo. Certo. Esatto. In realtà ci sono Mif e Lieto che danno le martellate al muro. Col martello che ripara, tipo così puoi rompere le cose e puoi ripararlo. Non succede niente, tipo bombo. Lo sport dell'anno. In tutto questo guarda Adone sentendo i rumori venire da fuori. Mm-hmm. E ti dice... A te piacciono gli uomini, vero? Alzo la mano facendo vedere la fede alla mano. La fede. Immaginavo. Yeah. E volevo... insomma, Nibel. Cosa? Niente. Vuoi passare l'ultima notte della tua vita sui libri? No. Effettivamente no. Ma... non credo... Posso essere compagno di bevute, non di letto. se vuoi. Dai, andiamo a fare compagnia a chiunque stia bevendo giù. Perfetto. E... quindi non ho decifrato il sigillo di Yadamak. No, non hai finito, sei arrivato halfway through. Merito di Cici, grande Cici. Dai, mi sei lineato così. Mi spiace. Ma dai, come? Mi spiace. Che perché io volevo chiedere a Mico di castare un eromanzi. Lo farai. Vi divertite tutta la sera, ti racconta i fatti suoi, ridete, scherzate, formi un legame anche non profondo, però intenso con Cici. E nonostante voi abbiate dei background pressoché opposti, cioè completamente diversi, sia culturali che familiari, trovate dei punti in comune nella vostra passione per gli animali, per cose del genere, e per il fatto di essere cresciuti nell'impero, dopo tutto avrete delle cose in comune. E per la prima volta nella vita di Adone senti che puoi avere un legame diverso, per una volta nella vita del nuovo Adone, dal mero assorbire le anime altrui. Bello. Niente, questa è una tua realization che puoi decidere che cosa fartene. Se sono scesi giù a bere, probabilmente sono rimasto. Sì. Beh, a un certo punto, dopo aver fatto un po' i giovinassi, raggiungiamo Nibel e ci mettiamo a bere con lui. Sì. Comunque vi chillate, e questo sarà molto utile perché vi faccio partire la mattina dopo con tutto full mana, full vita, max rollato. L'altra cosa che vi chiedo, prima di fare la scena finale, è se effettivamente Mif è in condizione di castare un Aeromancy per far dormire Adone. Io la lascerei al dado perché Mif ha chiare intenzioni per stanotte. Quindi puoi anche farlo e poi finire con quello che devi fare. Sì. Anzi, t'assicuri che siano tutti addormentati? Sì. Aspetta, questo non detto, lo volevo. Mi raccomando, resisti questo. Questo non devi resistere dietro. Da 20 anni, cioè, non c'ha problema. Vabbè, pensieri miei. No, è un romanzi, non il sesso. Sì, certo. Parliamo di quello. E, no, Lieto fa sapere che, vabbè, anche se mi addormentassi... No, vai. Vai. Lascia... Come se... Come se... Copia ideale. Il permesso di continuare anche loro. Sì, madonna. L'obbligo, no, volevo dire. Adoro ok, la facciamo molto in fretta sta scena del sogno perché sono stanco e voglio chiudere la sessione. Beh, possiamo anche farla l'altra volta. No, dobbiamo fare adesso. Allora. Allora, l'idea che avevo non funzionerà. Cosa volevi fare, perché? Vediamo col sogno. Ah, ok. Mif ti casta un aeromancy e poi se ne va. Quindi you're on your own. Ci proviamo. E la prima cosa che succede quando inizi a sognare è che sei in un luogo che non ti è così familiare, benché tu l'abbia già visto. Sei in un corridoio e c'è una finestrella aperta. Allora, io in verità, Biani, ci volevo fare una cosa. Vai. Posso provare attraverso questa finestrella a raggiungere te? Non so se sta dormendo. Sogni di Pronoe? L'inconscio di Pronoe? Una voce alle tue spalle ti dice: non è così che funziona. Com'è che funziona allora? In questo regno nessuno governa e nessuno può andare a visitare qualcun altro. Le poche volte che ci sei riuscito era a causa di qualcuno che aveva preso controllo di questo posto. Ah, io mi giro, chi è che mi sta parlando? Dietro di te c'è una figura elegante, dai vestiti neri, e della quale riesci a vedere solo il sorriso. Tu avevi detto che dopo quella volta sulla collina te ne andavi, che ti avevo rotto il cazzo. Mi spiace, quella volta non ero io. Vero. Ah, Adone sospira e dice: posso almeno ricreare qualcosa di piacevole per me? Te lo concederò. Ho bisogno di raccontarti una cosa prima. Io in questo luogo non ho nessun potere. Le passioni, i sogni degli umani sono qualcosa che mi è totalmente alieno e che onestamente disprezzo. So che hai visto simulacri di me molte volte nei tuoi sogni, specialmente da quando ti sei ricordato. Ma quelli non erano me. E ora dovrai chiederti che differenza c'è questa volta. La differenza è che sto facendo una scommessa. Ricordi cosa ti dissi? Sulla torre? No. Ti chiesi di fare esattamente quello che avresti fatto normalmente, di non deviare il tuo destino, perché la parte scritta era quella corretta. Senti questa fastidiosissima musica? Senti che non è mai stata così vicina come adesso. È vero questa cosa? Sì. Ok. Dovrai solo seguire il percorso che è già stato tracciato per te. Incontra quell'uomo. Lascia che succeda quello che deve succedere. Non avere paura. Io, Vianic, sai cosa dopo te lo dico, vabbè. Hai qualcuno che ti protegge? Ok. Mettiamo caso che mi fido. Mi lascio... catturare? Uccidere? Come? Il destino è già stato scritto. Non ti devo rivelare nulla di quello che succederà. Lascia solo che succeda. Verrai portato esattamente dove devi andare. Se i miei compagni provassero a interferire? Non ti preoccupare, ho detto. Il loro destino è già scritto. Faranno tutto quello che serve per portarti dove serve. Gli piaccia o meno. Ho finito il tempo qui, ma purtroppo questo posto mi è veramente alieno e non ho grande controllo. Ti lascio i tuoi sogni preferiti, i tuoi campi allegri e tuo marito. Solo seguendo questo riuscirai a rivederlo. Buonanotte, Adone. La figura buonanotte. Scompare nell'oscurità. Adone sorride, vagamente soddisfatto, e quando si gira la scena cambia e si ritrova nel salotto di casa sua ad attendere che Silas torni da una lunga giornata di lavoro. E ti porta dei panini. Ok. Presi al mercato. Molto bellissimo. Buoni. E dopo lo inforniamo. Fate l'amore dolcemente e passi. Vabbè, non serviva. Era una battuta che non dovevi elaborare. Apro una piccola parentesi. Io prima, quando ho pensato al Magister, ho detto: ma sai cosa? Ma io mi faccio ammazzare. Secondo me c'è qualcosa di utile da uccidere Adone. E sono felice che avevo vagamente ragione. Vaga. Cambio di scena. Nibel, la tua notte passa tranquillamente. I tuoi sogni sono cullati dall'alcol e quindi sono abbastanza rocamboleschi nel loro essere comuni, non sono niente di eclatante, sono le solite cose. C'è anche il sonno troppo pesante per sognare. Esattamente, cioè magari sogna ma non se li ricorderà la mattina dopo. Sì. E fai un sonno tranquillo, un sonno ristoratore. Dall'altro lato, Lieto non dorme, perché dovrebbe. E Mif, voglio sapere cosa fa. Se non dorme insieme a Lieto o se dorme a fianco a Lieto. Penso che dorma. Cos'è che hai detto, Sirio? No, niente. Niente. Penso che dorma a fianco a Lieto. A fianco a Lieto, ci sta. E cos'è che ti culla il sonno? Capiamo, dobbiamo capire. Dobbiamo comprendere. Sì, certo. Ho voluto per questo si gioca a dire. Le performance Ika, le performance di Lieto da 1 a 10, come le valuti? Nel senso, in knowledge. Un cazzo di 20 centimetri, ma non lo sa usare. Esatto, esatto, è quello che stavo chiedendo. Perfetto, mi sei top. Perfetto. Cioè, beh, dovrebbe andare. Cioè, se ti... Perfetto. Se la scel- Miff si è posso contenta. Aprire una piccola parentesi, però certo. Qua, un tantino così, Miff non è top, è bottom dominant. Power bottom. Perché... No, perché ah, okay. Top o si mette lo strapon e lo incula, quindi è dom, può essere un power bottom, ma rimane bottom. Non dire che deve essere submissive. Hai ragione. Minuscolo pet peeve. Grazie per averlo. Ecco. Tecnicismo è il cuore del roleplay. Unless. Quindi. Unless, la specificata. C'hanno un martello che ha un manico. Non... Nibe l'ha ripreso prima del mio martello. Non lo fate. Che dovete martellare, va bene. No, ragazzi, ho avuto un pensiero orribile. Posso condividerlo? Certo. Hai parlato di Rumaru? Certo, è porca troia. Ti leghi lo spago intorno? Sì, sì, sì. Beh, sicuramente non ci sono conseguenze a infilarti le palline demoniache nel culo. Ma se c'è una persona che potrebbe mai farlo, quello è sicuramente dietro. E anche Miff per la scienza, probabilmente. La vaccina lei, però, perché allora basta convincere. Sì, esatto. C'è un altro buco lì davanti, dietro. Vero, verissimo, indubitabilmente. Indubitabilmente. Vi regrabbo un secondo per dire che comunque poi Miff si addormenta. Sì, sì, Miff si addormenta, certo. Miff sogna una panchina, questa volta sulla schiena di una trota, e la trota si gira a guardarti come per chiederti: ma vuoi salire o no? Mi sale. Ti siedi sulla panchina? C'è qualcuno? Per ora no, ma la trota fa un bel pezzo, poi si ferma a quella che sembra la fermata di treno e sale un uomo vestito di nero che si ragazzi, siede. Scusate, io vi devo un attimo interrompere perché o finiamo fra un minuto o mi sto pisciando addosso. Vai a pisciare, vai a pisciare, facciamo sta cazzata qua, quando torni finiamo. Tanto ti faccio sta scena off topic. Mm-hmm. Ti siede a fianco una figura nera, sorridente, che si limita a dirti: bella giornata oggi. È finita in una maniera carina. No, dico quella che deve arrivare. Beh, se lo dici tu mi fido di certo. Hai dei piani per stasera? Stasera intendi la giornata che deve venire o la giornata che è appena passata? Quella che deve venire. Andarmene da quest'isola. Non credo che lo farai. Penso di sì, magari non domani, ma magari dopo domani. Sì, sì, dico, non credo lo farai domani. Domani probabilmente si farà quelle cose per Nibel. È importante. In bocca al lupo, questa è la mia fermata. La carpa si ferma, l'uomo scende, e la carpa chiede: dove sei diretta? Casa. E la carpa procede verso casa tua. Allora, prendo da bere. In realtà vado a bere. Io vado in bagno. Di... Sì, sì, e ci rivediamo per il finale. Vado in bagno un attimo anch'io. Cosa è successo con Miff? La carpa l'ha portata a casa. E basta? Cosa le ha detto l'uomo che ride? Niente di particolare in realtà, che probabilmente no, non davvero se ne andrà. Mi stai... Probabilmente non se ne andrà dall'isola. Perché ha detto il Miff ha intenzione di andarsene da quest'isola. E gli ha risposto molto probabilmente questo non succederà. Allora, io dirò una cosa. Avrei dovuto fare quel rewind, sicuramente. Però una volta che mi ha beccato No, cioè, no, se... ma non ci stava, infatti. No, non aveva così, senso mentire, me, che no. Cazzo ti mento? Mi hai beccato. Cioè, sei un magister, non te ne accorgi? Prendola come token al magister. Eccolo. Poi gli manca la maschera bianca. Oh. Poi tornò con quella di Viper Vendetta, che non è proprio uguale. Pjanic, cioè, vengo... tipo quella di... cioè, Bleach, c'è la maschera bianca. Vengo qua da tu settimana prossima, ti faccio il cocot, se ti va. Idea. Non andiamo a vedere Macho Capatonda al cinema. È vero, bellissimo. Wow. Tra l'altro i film sono l'unica cosa in cui riesco ad essere fully locked in. Ma è parete della diagnosi quello. Ok, ma infatti la gente mi dice, è difficile guardare i film. No, sono totalmente assorbito. Cioè. Sì, sì, sì, no, no, infatti. No, mi è passato davanti il... forse me l'hai mandato tu. Oddio. No, non me l'ha mandato, me l'ha mandato qualcun altro, l'ho mandato. E era il Leoil dei videogiochi col tunnel che si muoveva, tipo. Perché le persone normali dicevano, no, ma mi fa venire la nausea. E cioè, tipo, io che ho locked in. Locked in, tantissimo. Ma, tra l'altro, te l'ho detto del mio psichiatra? No. Ritardato? Ci vediamo martedì, tra l'altro mi fa... no, aspetta, c'è Nibel, ti racconto dopo... Sì, sì, sì, finiamo sta cosa, poi mi esci dopo. Io devo finire di masticare, un video in un secondo. No, ma ci metto un secondo a raccontare questa storia, quindi finisci di masticare. Quello non mi sembra masticare, però. Una mezz'ora. Esatto, esatto, esatto. Non riesco. Go-go. Non ho la lingua. Ti ha fatto biffa dietro. Go-go. Go-go. Wow. Beh, si è arrivato quasi tutta la campagna senza personaggi che scopassero. Oh, raga, mi sono arrivati i soldi, gli ultimi... La mattina dopo... avete tutto sotto controllo. Per cui Adone è davanti alla fila e voi lo seguite a fare questo incontro, ma state a una certa distanza oppure gli state intorno? Adone vi consiglia di tenere una certa distanza, qualsiasi cosa, perché non si sa mai cosa può succedere. Intanto penso che Nibel e Lieto si stanno portando l'automa dietro. Sì. A questo punto non hanno neanche bisogno di camuffarlo. Sì, sì, sì, lo state trascinando. È l'alba, e nel punto dove camminate come se stesse trascinando tutti l'automa, nonostante lo stia lavorando solo Nibel, per l'ansia, per l'agitazione, per il peso della situazione. E quando siete negli outskirts, fuori dalla città, c'è un solo uomo, girato di spalle, con entrambe le mani dietro la schiena, una delle due mani stringe il bastone peculiare, e vedete che ha un laccio che gli lega la maschera alla faccia. Vi guardate intorno, in cielo, in terra, verso il mare, per vedere se una faccia familiare stia arrivando, ma non sembra esserci nessuno, solo quel gigantesco pesce che oscura gran parte del cielo. Essendo mattina, da sotto uno dei suoi lati si vede il sole, quindi è uno dei pochi momenti in cui c'è effettivamente luce. Percependo il vostro arrivo, il magister si gira e lascia una mano dietro la schiena e con l'altra impugna il bastone. Ti indica col bastone, Adone, guarda a tutti e dice: singolare, in genere chi si trova nella vostra posizione scappa e si nasconde. Il magister batte il bastone per terra e inizia a volare. Ma voi no, voi cercate attivamente il pericolo. Siete giovani, certo, ma di questo passo non diventerete mai vecchi. Sapete perché non mi mandano praticamente mai a risolvere i problemi? Con un gesto scuote il bastone e pronuncia una formula. Hallusei Stone Clopo. Innumerevoli catene emergono dal terreno e afferrano tutti i membri del gruppo, immobilizzandoli a terra. Perché le mie magie sono troppo potenti. Fuori controllo talvolta. Quando io entro nel campo di battaglia, è la fine per tutti. E col nostro lavoro non va bene. Non va quasi mai bene. Sapete quanto è difficile trovare un araldo dopo che ne avevi ucciso uno? Nel migliore dei casi bisogna aspettare anni e comunque rischiare centinaia di vite umane. L'impero non se lo può permettere. E io proprio non ce la faccio a tenerli in vita. Deus ex exiplis. Scende a terra, mentre sopra il bastone si forma un piccolo sole in miniatura. Vedete, con questo potrei cancellarvi definitivamente. Risolvere il problema di un araldo incontrollabile, di una porta troppo aperta, uno scherzo della natura, una traditrice e l'ultimo anello di una vile catena. Con un solo tocco io vi posso puri... Una figura, vestita di nero, si avvicina silenziosamente alle spalle del Magister. Non emana nessuna forma di magia percepibile, a differenza vostra, che siete un faro nel giorno. E questo è come se fosse qualcuno nella folla, totalmente invisibile e dimenticabile. Lo vedete che punta qualcosa alla nuca del vecchio, col sole in mano, e poi dice... Salutami tantissimo, Eriots, vecchio di merda! Un'esplosione. Sulla fronte della maschera bianca emerge un piccolo bernoccolo. Schizzi di sangue emergono da ogni lato della maschera, tingendone i bordi di rosso. Dopo un istante il sangue cola da sotto mentre l'uomo cade a terra, prima sulle ginocchia e poi faccia a terra. L'assassino, ancora in piedi, soffia sulla sua arma e la ripone nella fondina. Si china sul vecchio e intanto vi parla. Li devo ringraziare. Serviva una distrazione del vostro calibro per confondere il vecchio. Il suo ghigno inquietante, semimetallico, mentre toglie la maschera al corpo del Magister e la lega alla sua cintura, è tutto ciò su cui riuscite a concentrarvi. Non riuscite a parlare, non riuscite a fare nulla. Lui era il più forte, ma anche gli altri non scherzano. Non penso che riusciremo di nuovo a fare questo giochetto, per cui, inventatevi qualcosa. Loro hanno tentato per anni, forse decenni, di nascondere la verità al mondo, di coprire l'impero con una coltre di nebbia. Non è questa la strada corretta. Volete dire qualcosa? Siamo liberi dalle catene? No. Questa è intenzione di fare qualcosa? Si toglieranno da sole tra un po'. E non riusciamo a fare niente? Nibel fa forza, cioè cerca di far forza per liberarsi prima. Non sono nemmeno fatte di materia. Sì, no, ma ci prova, sì. Cioè, in vano ma lo fa. Lieto? La figura non l'abbiamo riconosciuta? Sì, sì, c'ha mezza faccia di metallo, quindi è eterno. Ah, ok. Adone okay. Lo guarda e dice... Grazie, Devin. Miffo, voleva dire qualcosa? Era collegato con le cose di Nibel. Dammi un attimo. E chi ci dice che tu non proverai a fare qualcosa a noi? Devin si avvicina a Miff, guardandola dall'alto in basso con una nota di disprezzo. Quasi dimenticavo. Ti tira un calcio con tutta la sua forza sulla faccia. Ti spacca il labbro e ti fa cadere un dente. Non provare mai più a fottermi, piccola troia centauro. Detto questo, siamo pari. Buona vita di merda, e se ne va. Ci ha visto che sta rantonando dal male, non è abituata a ricevere un colpo del genere. Nibel cast overpower. Nulla di quello che fate serve a liberarvi dalla situazione. No, vaffanculo, io posso castare magie. No, le catene ti impediscono di castare magie. Le stregonerie le posso castare senza problemi. Le catene ti impediscono di castare le magie. Però non posso castare neanche overpower. Sì. Siamo lì. Dureranno qualche minuto, non tantissimo, però abbastanza per farlo allontanare. Il cadavere del Magister giace a terra e vedete Devin scomparire all'orizzonte. E la sessione finisce qui.